guardo la mia vita, io mi accorgo che ho nascosto dentro di me il male più grande che c'è. E quanta vita ho viaggiato, scoprendo mille città, io senza troppi perché. Peccato, perfino di ingenuità, in qualche letto sbagliato qua e là, ma dimmi chi non lo fa. 30 anni vedi non mi fanno male, mi sento giusta così, con questa notte da sfogliare. Così.